La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con La Rosa Purpurea, il magazine di cinema di Radio 24 che ogni weekend vi racconta tutti i nuovi film in sala e davvero molto di più. Soprattutto questa settimana abbiamo una puntata piena zeppa di contenuti e soprattutto di grandi protagonisti. Qualche nome sentirete e nella prossima ora le interviste con il protagonista di The Wrestler, il grande Mickey Rourke, con il protagonista e il regista del film Verso l'Eden, Riccardo Scamarcio e Costantin Costa-Gavras, uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo. E ancora il grande successo teatrale Due partite arriva sul grande schermo con la regia di Enzo Monteleone, che sarà nostro ospite insieme a due delle otto protagoniste al femminile, Claudia Pandolfi e Paola Cortellesi. E non mancheranno ovviamente le recensioni di altri film che arrivano in questo weekend, come per esempio La Pantera Rosa 2 con uno scatenato Steve Martin. Insomma, davvero tanta carne al fuoco, parleremo e giocheremo insieme con i DVD, racconteremo un festival che apre i propri battenti in questo fine settimana, il Bergamo Film Meeting. Allora, non perdiamo altro tempo, avete capito, si tratta di una puntata da ascoltare con grande cura e come sempre cominciamo a farci l'orecchio. Lo facciamo entrando nei trailer, nei passaggi audio, nelle suggestioni sonore delle novità del weekend nel nostro audio sommario. Ci beviamo una birra? Una birra? Non hai una figlia? Sì, ho una figlia, ma non le sono mai piaciuta. Dovresti chiamarla. Lei cosa crede che sia? Un registratore. No, è un registratore a paonte. Vi si cela una penna. Sorprendente. Mi chiamo Cristina. E tu? Elias. Elias. Dove sono gli altri? Dove si nascondono? A pane fresco. Signor panettiere. Ho una domandina veloce veloce per te. Senza giudizi morali, se mandassimo in onda la roulette russa, sarebbe legale? La possibilità di mandarla in onda sarebbe meno di zero. Ti ho chiesto un parere legale. È un parere di buonsenso. Quando avrai un parere legale, chiamami. Quante volte ci hai provato? 4. E se non resto incinta, non è che posso adottarlo? No, perché vado una single, non gli danno. Io ho altre 6 eiaculazioni del mio Bruno alto 1,85. Sei scema? Congelate. Ma facciamo tutti fratelli? Beh, almeno non sono figli unici. Watchmen. Uno di noi è morto stanotte. Qualcuno sa perché. Qualcuno sa. Forse qualcuno sta eliminando gli eroi mascherati. Attaccare uno di noi e attaccarci tutti. Gli ultimi dialoghi stentorei che avete sentito sono relativi al film con il quale vogliamo cominciare a presentarvi le novità del weekend. Si intitola Watchmen ed è un film molto atteso, soprattutto da tutto quel popolo delle graphic novel, gli appassionati di questi romanzi a fumetti, fatemelo dire in maniera impropria, forse non arrabbiatevi voi che amate questa forma invece di espressione artistico-letteraria di primissimo livello. Pensate a Watchmen, che è nata come miniserie a fumetti di supereroi di 12 albi, scritta dall'autore britannico Alan Moore, disegnata dal suo connazionale Dave Gibbons. Ebbene, arriva adesso il film, il pubblico è più o meno quello che ha amato o non amato, chi lo sa, ma che comunque era interessato a The Spirit. E allora facciamoci raccontare Watchmen dal nostro Diego Giuliani. Tempo scaduto, devo supporre. New York, 1985, un passato ipotetico dominato da paranoia e paura. L'orologio dell'apocalisse ha scoccato l'ultimo rintocco. Ad attendere l'umanità all'alba del nuovo giorno c'è ora un conflitto atomico tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. I Watchmen sono finiti. Che suggerisci di fare? Punizione. L'ultima speranza si è spenta con gli Watchmen del titolo, una banda di eroi mascherati che anni addietro garantivano la sicurezza della città ripulendola da criminali, corruzione ed immoralità. A richiamarli in azione è l'omicidio di uno di loro, un gesto che induce il misterioso Rorschach a rimettere insieme la banda per far fronte ad una nuova ed ancora sconosciuta minaccia. Attaccare uno di noi e attaccarci tutti. tono epico delle musiche e scenari visionari portano la firma dello stesso Zack Snyder che abbiamo imparato a conoscere con 300. Dalle Termopili all'apocalisse atomica il tratto però cambia. Meno videogame, più ombre e tratti oscuri. A servire l'assist è questa volta una celebre striscia della DC Comics firmata Alan Moore, storico fumettista già al servizio del cinema con La Lega degli Uomini Straordinari e La Leggenda di Jack lo Squartatore. Suggestioni grafiche ed atmosfere dark confermano l'ispirazione di razza. La New York disegnata da Alan Moore è a metà tra il bianco e il noir di Sin City e l'immaginifico di Blade Runner. Suggestive anche le ambientazioni anni 40 con cui si alterna la narrazione, dal magnetico Rorschach allo strano emulo di Batman fino all'ammaliante spettro di seta. Costumi civili e maschere di supereroi ci riportano al sapore antico della graphic novel che negli Stati Uniti ha spopolato sul finire degli anni 80. Perché dovrei salvare un mondo che per me non ha più alcun interesse? Fallo per me. Nel passaggio dal fumetto al film, però, qualcosa si inceppa. Forza e premesse degli straordinari titoli di testa si diluiscono in una salsa new age a tratti ostica e quasi irritante. Responsabile numero uno, il mistico e scolpitissimo uomo blu a cavallo tra materia e antimateria che avete appena sentito filosofeggiare sul suo distacco dall'umanità. Le oltre 2 ore e 40 di film non fanno poi bene alla storia, troppi rivoli in cui si perde la narrazione e troppo il tempo che si impiega per ripescare il bandolo della matassa. L'orologio dell'apocalisse da cui tutto parte si sarebbe insomma potuto tranquillamente fermare con un'ora di anticipo. Il mondo guarderà verso l'alto e griderà salvaci, ma io sussurrerò no. E chissà allora se Watchmen riuscirà ad acchiappare la testa della classifica al botteghino. Non ce l'hanno fatta le nuove uscite dello scorso weekend e nonostante le delusioni agli Oscar, Brad Pitt e il suo Benjamin Button continuano a prendersi rivincite al botteghino, come ci racconta la nostra Daniela Fagion nella Screen Parade. Effetto Fashion Week ed effetto Oscar nella top 5 del weekend scorso, che ha visto risalire dalla 15ª alla 5ª posizione il pluripremiato The Millionaire, altri 681.000 euro per il film di Danny Boyle e un totale che raggiunge i 4.253.000. Due dei moschettieri si chiamavano Athos e Porthos. Qual era il nome del terzo? Debutto al quarto posto per il mai nato, 776.000 euro di incasso e l'ottima media per sala di 4.336. Subito sul podio la storia del Moro di Venezia, rivista e corretta con Nicolas Vaporidis e Laura Chiatti, quasi 970.000 euro per Iago, diretto da Wolfgang De Biasi. Quella Desdemona, la figlia del rettore, è divina. Tu con una così non hai speranza. Ancora una buona performance per il curioso caso di Benjamin Button, che aggiunge al suo bottino un altro 1.480.000 euro e sfiora solo, ma per pochi euro, i 9 milioni totali. Shopaholic alla riscossa invece per il film tratto dal romanzo di Sophie Kinsella. I Love Shopping incassa 1.670.000 euro, ma anche qualche critica dalle fan del libro. Non è tutto diavolo quel che veste Prada. Mi servono un paio di scarpe di vernice nera 43. Tu parli il pradese? La rosa purpurea. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? È proprio un personaggio degno di una ballata di Bruce Springsteen, il wrestler Mickey Rourke, un figlio di quell'America che ha perso da tempo il sogno, ma non l'orgoglio, che si aggira nelle periferie dell'umanità sconfitta e indomabile. If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. The Wrestler è il film che ha spaccato il cuore a 5.000 fra critici e spettatori che l'hanno visto nel settembre scorso a Venezia e ha bagnato di lacrime anche gli occhi di 7 giurati, compresi quelli di Wim Wenders, che gli ha assegnato il Leone d'Oro. In realtà, anche se il Leone l'ha vinto il film, era opinione comune al Lido che quel premio fosse il riconoscimento a un attore passato dalla polvere di stelle a quella dell'inferno e che proprio in questa interpretazione, talmente nelle sue corde da sfiorare l'autobiografia, ha trovato motivo di riscattare scatto personale e professionale. Randy Lariette, The Ram Robinson! Randy The Ram Robinson era un eroe negli anni 80, era il più grande campione del circuito del wrestling professionistico. ma quando consumi la candela da entrambi i lati il declino è inesorabile. Così il Randy di oggi è un uomo segnato nel fisico e nel morale. Tira a campare, dormendo in un camper, tra un lavoro da salumiere part-time e qualche combattimento, davanti a un pubblico scarso e nostalgico. Tu hai ragione, lo so. Avrei dovuto essere io a prendermi cura di tutte le cose. Ma purtroppo non è andata così. Sono un vecchio pezzo di carne maciullata e sono solo. Vorrei soltanto che tu non mi odiassi. Randy, lo avete sentito, ha una figlia che non lo vuole vedere, la bravissima Evan Rachel Wood, da quando fu abbandonata con la madre per il successo e la gloria. E ha un'amica, la spogliarellista Cassidy, Marisa Tomei, col tempo più bella e più brava, che per certi versi gli somiglia. Anche lei a fine carriera, anche lei ha un figlio, anche lei fatica a immaginare un domani fuori dal personaggio che rappresenta. Questo cos'è? È un condominio a Trenton. Vuoi trasferirti lì? Ci sto provando, sì. Sì? Mm-hmm. E il tuo lavoro a Chicks? Chiuso. Me ne vado. Quando questi due mondi vengono in contatto, le barriere cadono, ma Randy e Cassidy capiscono che forse nella loro vita non c'è spazio per uscire dagli alti argini del destino che loro stessi si sono costruiti giorno per giorno. Un film poetico e struggente, un rock senza cedimenti alla retorica, nonostante la nostalgia e l'amarezza siano i sentimenti dominanti. Darren Aronofsky, abbandonate le visionarietà impalpabili di The Fountain, scende sulla terra, per la strada, e con una passione e un amore quasi pasoliniani racconta gli ultimi, gli sconfitti. Mickey Rourke, con il suo volto tumefatto e la sua storia personale, instaura col pubblico un dialogo che va oltre il personaggio. È come se dicesse: guardatemi, non sono più il sex symbol di 9 settimane e mezzo, ma sono ancora qui. Molte persone mi hanno detto che non avrei più potuto combattere, ma sapete che vi dico? Gli unici che potranno dirmi quando non sarò più all'altezza siete tutti voi. E allora sentiamolo Mickey Rourke raccontare il suo approccio a questo personaggio. A dire il vero, non sono propriamente un fan del wrestling. Anzi, all'inizio avevo davvero poco rispetto per questo sport, anche perché il mio background è nella box, lo consideravo più che altro uno spettacolo. Almeno fino a quando Darren mi ha spedito in una palestra di wrestling per 2 mesi, mi ha fatto spaccare la schiena. E così, piano piano, ho cominciato a rispettare questi ragazzi. Anche se molto coreografico e sicuramente anche una forma di intrattenimento, quando qualcuno di 120 kg ti sbatacchia da una parte all'altra della stanza, ti fa male davvero. Quanto alla canzone di Springsteen che avete sentito in sottofondo appositamente scritta per il film, Rourke racconta un retroscena. Bruce era molto occupato con il suo tour europeo, per cui all'inizio temporeggiava. Ci siamo però scritti diverse lettere, dopo un po' ha cominciato a dimostrarsi possibilista, a dire che forse sì, avrebbe cercato di capire se ce l'avrebbe fatta. E la risposta definitiva me l'ha poi data proprio la settimana che ha perso un membro della band. Appena pochi mesi prima ne aveva perso un altro con cui suonava da 30 anni. Attraversava, insomma, un periodo molto difficile, per cui il suo gesto è stato davvero generoso e davvero speciale. Un film davvero da non perdere, questo The Wrestler, che tra l'altro regge anche in versione doppiata, così come non dovete perdervi l'occasione per vincere anche questa settimana un DVD, anzi, ancora una volta, un Blu-ray ad alta definizione. 3 tracce dello stesso film, ascoltiamo la prima. Chi è? Susie Banner! Arrivo ora da New York. Non so nulla, non la conosco. Ma ho ricevuto una vostra lettera. Senta, piove a dirotto, mi faccia entrare, così le spiego meglio. Pronto, pronto, mi risponda! Pronto! La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta. Se no, rimanete in ascolto perché più tardi semineremo altri indizi. E parliamo ora di cinema italiano, perché arriva sugli schermi la versione cinematografica di quello che è stato probabilmente il più grande successo del teatro di prosa italiano dello scorso anno. Si intitolava 2 partite, la regia era di Cristina Comencini, e metteva in scena 2 generazioni di donne interpretate da alcune delle più acclamate attrici italiane: Margherita Bui, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Valeria Milillo, che vestivano i panni di 4 madri nel primo atto, ambientato nel 1965, e delle loro rispettive figlie nel secondo atto 40 anni dopo. Nel film, diretto da Enzo Monteleone, e Lala May nel suo lavoro più celebre, le attrici diventano 8. Alle 4 della pièce teatrale, ci sono tutte, si aggiungono Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Claudia Pandolfi e Alba Rohrwacher. Ma ci racconta tutto con interviste alle protagoniste e al regista Enzo Monteleone, la nostra Barbara Righini. 8 donne, 4 madri e le rispettive 4 figlie, protagoniste di due partite film tratto dall'omonima pièce che ha avuto grande successo a teatro. 8 spaccati di vita di donna riuniti attorno allo stesso tavolo negli anni 60 per la partita a carte di ogni giovedì e negli anni 90 in occasione di un lutto. Enzo Monteleone accetta la sfida, lui, uomo, di ritrarre le frustrazioni del genere femminile. Gli uomini non ci sono mai, ma sono al centro di ogni discorso. Claudia è madre e moglie devota, deve sopportare un marito traditore. Gabriella sarebbe stata una grande musicista se non avesse scelto di sacrificare il talento per la maternità. Sofia è madre infelice, vorrebbe emanciparsi e si accontenta di avere un amante. Infine, Beatrice è in dolce attesa, spera in una vita migliore con una figlia in arrivo. Adora il marito, che però non sa parlarle. Io non ce la farò mai. Oh, tesoro, il primo parto può durare anche 20 ore. Ma cosa dici? Ma ogni parto è diverso dall'altro, eh? Sì, sì. Certo, però... se la prossima sarà più lunga e più forte, io credo che ti dovremmo portare in ospedale. Vent'anni dopo ritroviamo le 4 figlie di quelle 4 donne, indipendenti ma insoddisfatte in maniera diversa. Claudia Pandolfi e Paola Cortellesi interpretano figlia e madre. Guarda, mi sento di dire che forse parli alla coppia... mamma, figlia, più a disagio secondo me. Entrambe in qualche modo sfoghiamo una rabbia, un'aggressività. Lei ancora di più, nel senso che lei è a suo modo probabilmente anche una rivoluzionaria, nel senso che a quel tempo una donna che si permetteva anche di verbalizzarle certe cose veniva in qualche modo messa a tacere, no? La figlia, che sono io, non può che ereditare un atteggiamento così rabbioso nei confronti della vita. Mi sembra che l'atteggiamento di Rossana sia un po' distruttivo. Forse le donne di questa storia vivono il maggiore disagio. Rossana, perché è vittima di una madre infelice, quindi è una donna che ha respirato tensioni, no, in casa. Io, perché appunto sono la causa di queste tensioni, perché a mia volta ho vissuto un matrimonio infelice, una figlia forse non così tanto desiderata. Insomma, il mio personaggio, Sofia, è una donna che vive male nei suoi tempi, vive male il suo tempo, vive male quella condizione di madre e moglie che le va molto molto stretta. È l'uomo per me, fatto apposta per me. Due partite è una commedia, ma i momenti amari prevalgono e la tristezza di fondo si avverte per tutta la durata del film, nonostante la comicità di certe situazioni. Monteleone riesce bene a rendere anche visivamente gli anni 60 e gli anni 90, ma solo parzialmente sfugge al cinema d'impianto teatrale. Brave le attrici, in particolar modo l'ingenua e tenera Isabella Ferrari. Ma sentiamo il regista. Chiaramente le donne degli anni 60 vivevano una specie di limbo in cui i ruoli erano molto precisi. Era l'uomo che portava i pantaloni, era l'uomo che usciva di casa e andava a lavorare. E il ruolo della donna era quello di madre di famiglia, era tutto molto preciso. E 30 anni dopo le figlie hanno ottenuto dei risultati importanti grazie agli anni 70, al femminismo, a tutta una serie di conquiste sociali, però c'è un problema che rimane, il grande mistero, che è quello dei figli. Mentre una volta, appunto, negli anni 60 era più facile accettare il ruolo di madre e basta, adesso naturalmente se uno vuole lavorare e avere una propria indipendenza economica e una propria autorealizzazione deve mettere in gioco anche il discorso della maternità. Annunciato dalle note della celebre colonna sonora, ecco tornare sui nostri schermi l'ineffabile ispettore Clouseau, ancora con il volto del grande Steve Martin e ancora alle prese con i misteriosi furti di reperti e preziosi. È la Pantera Rosa 2, un'altra delle novità che approda ai cinema italiani in questo fine settimana. L'ispettore capo Dreyfus, come sempre, non si capacita, ma l'inchiesta viene affidata di nuovo a Clouseau, che, aiutato dal fido ma imbecille Ponton, che è Jean Reno, e da una task force internazionale in cui spicca il poliziotto italiano Vincenzo, interpretato da un irresistibile Andy Garcia, cerca di arrivare sulle tracce del misterioso ladro. Buon pomeriggio, ispettore capo, sono qui che le porto rapporto. Benedetta Légion d'Onore, fortunato lei che non gliel'hanno data, ispettore. Lei è così pulito, senza medaglie, senza l'incomodo di un ornamento onorifico sul petto. Abbondano i grandi volti del cinema, da Jeremy Irons a Johnny Hallyday, da Lily Tomlin ad Alfred Molina, e non manca la bella di turno, l'indiana Aishwarya Rai. Dirige con buon ritmo il norvegese Harald Svart, si ride dall'inizio alla fine, quindi missione compiuta. Unico neo, la Pantera Rosa dov'è? Di lei ci sono tracce solo nelle note di Harry Mancini, nel nome del diamante rubato e infine il buffo felino fa capolino sui titoli di coda. Un po' poco, non trovate? Ma sentiamo Steve Martin che affronta così il paragone con lo storico Clouseau di Peter Sellers. Peter Sellers was a great comedian, he was a great inventor of this character. Peter Sellers è stato un grande comico, un grande inventore di questo personaggio. Credo che non ci sia differenza fra i ruoli comici e drammatici, possono essere interpretati da attori diversi. Per me Clouseau è l'Amleto della commedia, è uno dei ruoli più difficili che esistano. In primo luogo sono onorato di essere stato scelto e poi di aver potuto partecipare ad un film che esprime una comicità sia fisica che verbale, nella più grande tradizione della commedia. La Rosa Purpurea. È una mattina d'estate. Un uomo giace rannicchiato e seminascosto dietro alcuni scogli su una spiaggia mediterranea. Poco più in là, bagnanti nudi giocano a palla nel mare. Il pallone cade proprio nei pressi dell'uomo, che si chiama Elias, ed è un immigrato clandestino sopravvissuto al naufragio della carretta del mare che lo trasportava verso l'Eden dell'Occidente benestante, insieme ad altre centinaia di fuggiaschi. Comincia così, verso l'Eden, o meglio Eden a West, Eden a Ovest, come recita il titolo originale, il nuovo film del grande Costa Gavras, che per questa odissea dell'immigrazione ha scelto un attore italiano, Riccardo Scamarcio. La palla, per favore! Grazie! Gli sguardi che hanno messo fine alla clandestinità di Elias sono quelli di un gruppo di turisti di un villaggio di lusso. Palme, musica, cibo, belle donne. Sarà quello l'Occidente? Presto Elias capisce che non è così, che è destinato ad essere soggetto a desideri sessuali, costretto a lavori umilianti, a non poter rivelare la sua identità. Il villaggio turistico si trasforma in una prigione dorata dalla quale Elias scappa, destinazione Parigi, dove ad attenderlo, Elias ne è certo, ci sarà un mago cui un giorno aveva fatto da sparring partner. Ti hanno promesso i documenti, eh? Sì. Non li avrai mai. Quindi non rompere le palle. Lavora più piano, chiaro? Non puoi correre come un imbecille, stai qui solo da pochi giorni. Appena vedono che sei stanco, ti sbattono fuori, è questo che vuoi? Io voglio andare a Lido, a Parigi. Quello non è a Parigi, è a Venezia. Inutile dire che nemmeno la bacchetta magica regalatagli dal mago permetterà ad Elias di cambiare la sua precaria condizione di uomo destinato a rimanere in un limbo di senza tetto, senza lavoro, senza soldi, che è il dramma di tanti immigrati. Un film dal fascino un po' démodé, lontano dalle frenesie narrative e stilistiche di tanto cinema contemporaneo, ricco di allegorie, metafore, situazioni grottesche e anche ironiche. Una vera e propria odissea, cui Riccardo Scamarcio presta il volto in un film che nelle intenzioni dovrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera. E allora sentiamolo, in esclusiva per La Rosa Purpurea, Riccardo Scamarcio. Intanto ritengo sia una grande fortuna per me aver avuto questa opportunità di lavorare con Costa Gavras e non solo, di avere l'opportunità di lavorarci da protagonista in un ruolo singolare come questo, che si muove in un impianto diciamo realistico, ma che è portatore di un simbolismo che trascende la realtà. Per un attore, intanto, per me in questo caso, è stato molto interessante potermi confrontare per la prima volta nella mia vita con un personaggio che non parla, parla pochissimo, che quindi diciamo reagisce agli eventi, alle situazioni che vive nel film, esprimendosi a gesti piuttosto che con le espressioni facciali, col corpo. Il tuo parere, la tua opinione del personaggio è cambiata dopo aver girato il film? Il personaggio che ho conosciuto nel leggere il copione era un personaggio che aveva in maniera embrionale varie possibilità. Ho preso quella che mi piaceva di più. E cioè trovare una sorta di candore quindi mi sono concentrato su questo. E il personaggio che ho incontrato sullo schermo quando poi ho visto il film può avere, credo, altri difetti, altre problematiche, ma ho ritrovato questa mia intenzione, cioè quello di attribuirgli questa caratteristica, cioè di essere candido ma semplice nelle relazioni, no? Questo costringe agli altri personaggi chiaramente a confrontarsi con la parte più autentica di se stessi. Quindi Elias fa quasi da specchio, no? È un personaggio che costringe questi occidentali a fare i conti con quello che è la parte più autentica di se stessi. Ma c'è un film anche che si chiama Being There, se non mi sbaglio, di Hal Ashby, in italiano Oltre il giardino, con Peter Sellers, che è un film che in qualche modo, questo film lontanamente, in una cosa appunto embrionale della caratteristica del personaggio, un po' me lo ricorda. Tra tutti i pubblici che potranno arrivare al cinema c'è sicuramente il tuo pubblico pregresso, il pubblico di chi ti ha conosciuto in commedie più leggere, brillanti, eccetera, soprattutto un pubblico femminile. Pensi che possa essere spiazzato da questo film? Penso che, diciamo, alcuni potranno rimanere spiazzati. Mi auguro e spero che l'idea pregressa, precostituita, che le persone che sono abituate a vedermi in altri film hanno su di me, non pregiudichi la valutazione. Però questo sta anche a quanto sono riuscito a rendere credibile questo personaggio. Credo che se uno si lascia andare e segue il film, poi non possa rimanere deluso. Adesso vogliamo farvi ascoltare anche il regista di Verso l'Eden, Constantin Costa-Gavras, greco di nascita, francese d'adozione, che ci ha regalato perle come Zeta, l'orgia del potere, sulla dittatura in Grecia, Missing, sulle dittature invece in Sud America, e ancora Music Box, che raccontava di un passato nazista. Insomma, sempre la privazione della libertà al centro della filmografia di Costa-Gavras, che ai nostri microfoni spiega la sua ricetta per affrontare il tema dell'immigrazione. Si può risolvere con la volontà del governo di cercare una soluzione, e dopo gli umani, ognuno di noi, di accettare questa gente come uomini, non come un pericolo. Il suo cinema ha raccontato negli anni quelle che erano le emergenze dei vari momenti. Lei ha raccontato della Grecia dei colonnelli, ha raccontato del Sud America, delle dittature, del passato nazista, lo ha fatto molto molto tempo fa, 20 anni fa, quando stava per cadere il muro di Berlino. Oggi lei sceglie l'immigrazione, ritiene che sia questa la vera grande emergenza dei nostri giorni? Probabilmente la più grande. E si dice gli anni che vengono va a essere quanti, 200 milioni, 250 milioni di persone che si cambiano paese, cambiano territorio, e sarà un problema enorme per noi. Ecco, lei ha scelto Riccardo Scamarcio che in termini di tipo fisico è tutt'altro che diciamo, l'incarnazione dell'immaginario dell'immigrato, sì, nordafricano, insomma, occhi chiari, capelli biondi. Perché ha puntato proprio su questa fisicità? Sì, si pensa sempre all'immigrante come un africano, però sono di migliaia e di migliaia di gente che vengono dai paesi dell'est o dai paesi dell'oriente, che non sono. Però il problema è che si vede, per drammatizzare il problema, in media generalmente fanno vedere gli africani. Chiaro che istintivamente c'è una paura per gli africani, sono negri, sono così, una cosa che non accettiamo facilmente, però anche loro bisogna guardarli come umani, perché sono esseri umani. Lei ha lavorato con lo sceneggiatore, uno sceneggiatore importante, che è stato anche lo sceneggiatore, ricordiamo, dell'ultimo Metrò di Truffaut. Quanto c'è di suo in questa storia, e quanto invece a tavolino avete cambiato insieme con lo sceneggiatore? È un cambio permanente, non si può dire, perché lavoriamo molto insieme, parliamo, io scrivo, lui guarda, legge, cambia cose, io riscrivo e tutto questo. Dunque non si può dire che... Perché anche lui, suo padre è un migrante, sono immigrante in Francia, suo padre da lui è un migrante di Polonia. Dunque questa cosa la conosciamo molto bene tutti e due. Ecco, mi racconti di questa lingua che, a quanto ho capito, avete inventato. Cioè le poche parole che Riccardo Scamarcio dice nel film sono in una lingua che non è una lingua esistente, è una lingua un po' inventata, no? Sì, una lingua inventata, perché non voleva che lui sia una nazionalità, un paese, chi si conosce. Dunque abbiamo inventato una lingua che era una cosa abbastanza facile finalmente. È vero che avete ribaltato le parole in francese? Abbiamo fatto le dialoghi in francese e ho ribaltato tutte le parole una per una. Le avete lette al contrario. Sì. Ecco, quindi l'unico luogo veramente espresso nel suo film è Parigi, perché per il resto è tutto un non luogo. Perché solo Parigi viene espressa come meta della libertà? Perché Parigi è la libertà, è l'utopia, la sua utopia. Questa è la parte personale del film, perché io quando ero alla scuola giovane aveva fotografie di statue, di pinture, si diceva Louvre Parigi. E Parigi si dice è la città della luce, la città della Rivoluzione francese, della libertà, tutte queste cose. Dunque, per lui, come per me, Parigi è la libertà. Ed eccoci alla seconda finestra aperta sul nostro DVD game per provare a vincere anche questa settimana uno splendido Blu-ray ad alta definizione. Ascoltiamo. Se ti accontenti del divano, Pat, per me puoi rimanere quanto vuoi. Grazie, ma domani mattina parto. Vado via per sempre. Oh mio Dio, che tragedia. Non casca mica il mondo se ti hanno cacciata da scuola, no? Pensa che io sono stata buttata fuori sempre, dall'asilo all'università. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, più tardi avrete un'ultima possibilità. E parliamo ora di un film che vede un'attrice molto glam fra le donne più sensuali del mondo, ma che questa volta si è anche cimentata come produttrice. Stiamo parlando di Eva Mendes, il film si intitola Live ed è una interessante riflessione su dove potrebbe portarci questa corsa agli ascolti televisivi sempre più radicale. Questa volta c'è di mezzo la morte in diretta, come insegnava il vecchio Tavernier. Abbiamo detto il film si intitola Live, l'ha visto per noi Daniela Fagione. Idol, 32 di share, 20° negli indici di ascolto. Survivor, 45 di share. Sono bombe, chiaro. E siamo in gara con quelle. Se la gente potesse, si guarderebbe pure la roulette russa. Scusa? Stavo scherzando. Dallo scherzo di una sua assistente, Katie Kubert decide di realizzare il reality show del secolo. Sensualissima dirigente ossessionata dagli ascolti, Katie vuole dare una scossa al canale per cui lavora, consapevole del continuo gioco al rialzo che la TV americana compie per accaparrarsi quel che resta dell'attenzione del pubblico. Senza porsi questioni etiche, ma solo freddamente giuridiche, Katie va avanti come un panzer per convincere pubblicitari e dirigenti che il progetto può funzionare. 50%! 50% di share, in metà delle case americane ci stanno guardando. Fantastico. Live funziona e diventa un reality nel reality, visto che tutto quello che succede dall'ideazione alla messa in onda viene ripreso da un regista che mostra a sua volta al pubblico la realtà della TV da dietro le quinte. Su un'idea metacomunicativa non particolarmente originale si muove bene la bella Eva Mendes, perfetta nel ruolo della signora del reality Live. Ma sentiamo da Eva Mendes se questo genere TV le piaccia e perché abbia accettato di incarnarlo. Believe it or not, I've done this movie, but I'm not... Che lo crediate o no, per quanto abbia fatto questo film, non conosco troppo i reality. È da un paio d'anni che manco da casa e non so cosa sia il peggio che ora offre la TV americana. Ho voluto dedicarmi a questo progetto perché credo che tratti un tema molto interessante, capace di far pensare e suscitare dibattiti. È giusto, è sbagliato, di chi è la colpa, della rete che ha prodotto lo show, dei partecipanti o del pubblico che lo chiede e lo guarda? Sono domande molto interessanti quelle che pone il film ed è per questo che mi è piaciuto subito. Non so al regista, ma a me quello che interessava era soprattutto partecipare a qualcosa che facesse riflettere. La Rosa Purpurea è uno dei punti di riferimento della stagione dei cinefili di tutta Europa, da 27 anni. È il Bergamo Film Meeting che ha aperto i battenti in questo fine settimana e con il quale noi apriamo la quarta parte della Rosa Purpurea. Lo facciamo perché l'evento è di quelli di qualità totale, perché il programma è da entrare in sala al mattino, uscire a mezzanotte e anche oltre, come vedremo, ma anche perché in questo strano paese che è l'Italia, un festival così, che resiste da 27 anni con un budget super risicato e mai incrementato, un festival che per 8 giorni riempie le sale, ebbene un evento così, vuoi la crisi, vuoi l'incuria delle amministrazioni, rischia la sua stessa esistenza. Ma andiamo con ordine, il programma di quest'anno, un concorso con 7 film europei, quasi tutte opere prime, 2 retrospettive alla regista francese Claire Denis, che sarà a Bergamo tra l'altro, e al grande Carol Reed, il regista del Terzo Uomo, del Nostro Agente all'Havana, che a Bergamo si vedranno in strepitose edizioni restaurate dal British Film Institute, che ha dato anche le copie per un divino omaggio alla grande Bette Davis, Ombre malesi, Figlia del vento, solo per citare alcuni titoli. E allora la Rosa Purpurea è lieta di dare spazio a questo piccolo grande miracolo che ogni anno a metà marzo si ripete nella bellissima città orobica, ospitando il direttore Angelo Signorelli. Il programma di quest'anno è un programma che appunto abbiamo studiato anche per il pubblico, nel senso che certe proposte tipo lo stesso Carol Reed, la stessa Bette Davis vanno un po' anche in questa direzione. Sono film, grosse anche produzioni, che però appunto danno un po' l'idea, il senso di un cinema anche che non si limita solo alla costruzione spettacolare, ma attraverso di essa trasmettono dei contenuti molto più profondi, anche vicini alla sensibilità della gente, a livello anche umano, che sono, credo, gli ingredienti che interessano molto a un pubblico che ci segue da tanti anni. Non mancherà una notte d'horror? No, noi sono ormai 2 anni che proponiamo questa iniziativa. In realtà poi la Fantamaratona, così la chiamiamo, si inserisce in una sezione che ogni anno dedichiamo a questo incrocio, contaminazione tra l'horror, la fantasy, la fantascienza. Quest'anno abbiamo scelto come argomento lo scienziato pazzo. Ricordiamo l'appuntamento al Bergamo Film Meeting fino al 14 marzo e torniamo al DVD Game, terza e ultima occasione per giocare con noi. Basta! Lo sai che è successo? Il tuo schifoso cagnaccio si è avventato contro Albert! Lo ha azzannato un braccio! Il mio cane è una bestia quieta, fidatissima, non ha mai provocato danni. Quel bambino, Albert, lo avrà sicuramente infastidito! La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di quale film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray proprio di questo film. Noi a questo punto salutiamo Claudio Pofi, che è già pronto a raccontarci tutte le novità in DVD. Ciao Claudio! Ciao Franco, eccoci pronti! Cominciamo subito con il riascoltare una delle tracce misteriose del DVD Game della scorsa settimana. È evidente che questa incantevole città è Parigi, e questo parco naturalmente è il Bois de Boulogne. Con permesso. Non era per niente facile, siete stati veramente molto bravi e volenterosi. Avete detto Sabrina, Irma la Dolce, Amélie, Cenerentola a Parigi e anche altri film, ma qualcuno ha detto anche Gigi di Vincent Minnelli, e quel qualcuno, Cristina Giussani Castello di Venezia e Massimo Iavarone di Senigallia, ha indovinato e riceverà a casa appunto il DVD di Gigi che Claudio Pofi ci racconta così. Claudio. Sì, un grande classico della fine degli anni 50, del 58 per la precisione, che vede appunto una grande cura da parte di Warner nella realizzazione di un'opera peraltro molto difficile, sia come colorimetria che come progetto da sviluppare in alta definizione. Ci sono dei momenti in cui si rileva un po' di grana, però rispetto al DVD il salto è assolutamente abissale, e se la versione in Blu-ray ha portato una grande qualità video, ci sono tantissimi extra, tra cui il commento della storica del cinema Jeanine Basinger e di Leslie Caron, dell'attrice Leslie Caron, sono numerosi gli approfondimenti. Ricordo che è presente anche una edizione speculare DVD a 2 dischi che contiene esattamente gli stessi extra. Passiamo invece a un cinema molto più vicino ai nostri tempi, è stato uno dei film più attesi e più apprezzati della scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, una commedia dei fratelli Coen, come sempre molto sarcastica, Burn After Reading. Ascoltiamo la clip. Minolo ha trovato questo CD in uno schedario. Era lì in fondo. Sì, e ci sono tutti questi file. Questa capo. Storia non mi piace. L'hanno lasciato lì. Metti un avviso nello spogliatoio delle donne. Un avviso? Per favore, qualcuno ha scordato qui un po' di merda segreta della CIA? Distribuisce Medusa questa commedia grottesca con momenti noir, dove si racconta di questo analista Osborne Cox che rassegna le dimissioni dalla CIA e inizia a raccogliere veramente delle poco importanti memorie sul suo lavoro. Qualcuno è convinto del contrario, il CD che contiene le informazioni viene trafugato, ci sono questi 2 sprovveduti dipendenti di una palestra che prima tentano di ricattare lo stesso Cox e poi addirittura di vendere le informazioni ai russi, con ben poco successo. Questa commedia, che è un affresco in realtà con un tatto e eleganza sulla disarmante stupidità umana, arriva in DVD con un'ottima qualità, sia video che audio, abbiamo 3 extra a disposizione con degli approfondimenti sulla realizzazione del film e il trailer. Ricordo che l'opera Burn After Reading è disponibile anche in Blu-ray alta definizione. A questo punto noi vogliamo parlarvi di una serie, facendo una digressione rispetto alla nostra natura rigorosamente cinematografica, anche di questa parte dedicata ai DVD, però è una serie talmente importante, talmente bella, talmente germinale, come si usa dire, perché da questo sono nati veramente serial che ancora oggi vediamo sulle nostre reti televisive, che la qualità cinematografica è assolutamente ineccepibile. Stiamo parlando de I Sopravvissuti. Forse qualcuno di voi, qualcuno che viaggia fra i 40 e i 50 per intenderci, se lo ricorderà. Era la metà degli anni 70 e questo straordinario sceneggiato della BBC arrivava anche in Italia, raccontandoci di un mondo sconvolto da una epidemia, non meglio precisata, che faceva fuori praticamente il bel 98% della popolazione mondiale. Finalmente, è il caso di dirlo, quella straordinaria esperienza arriva in DVD e ascoltiamo allora un breve passaggio audio dei sopravvissuti. Ma insomma, è soltanto un'influenza. Quanto può durare? Jenny, non è influenza. Stiamo facendo delle iniezioni, ma se somministrassimo acqua avrebbe lo stesso effetto, non fanno nulla. Il ministro dell'interno ci ha ordinato di continuare a fingere per impedire di diffondere il panico. Sapevo che c'erano stati dei decessi, l'hanno detto alla radio, ma non abbastanza da creare il panico. Loro minimizzano, ma solo qui abbiamo avuto 70 decessi. 70? E potrebbero raddoppiare o triplicare entro la mattinata. Claudio, innanzitutto la prima stagione, sì, ma seguiranno anche la seconda e la terza inedite in Italia. Sì, in realtà il primo box edito da Dolmen in collaborazione con Yamato Video è una parte della prima serie, si tratta di 4 dischi che contengono i primi 13 episodi, con in coda al quarto disco un'intervista al regista Penan Roberts, ad alcuni dei protagonisti, e c'è addirittura del materiale inedito legato al 13° episodio. La qualità della serie è abbastanza buona, come era uso all'epoca venivano realizzati in maniera differenziata dall'interno delle varie puntate le riprese, in esterni in pellicola, in interni in video. Il formato video è quello originale televisivo, disponibili 2 tracce, in italiano stereofonica e l'originale inglese monofonica. Quello che è importante è anche quella italiana e quella originale dell'epoca, questo aggiunge fascino a questa straordinaria serie, di cui parliamo con un super esperto di telefilm e di sceneggiati TV. Si tratta di Fabrizio Margaria, membro dell'Accademia del Telefilm, fra gli organizzatori del Telefilm Fest Festival di Milano, e al quale abbiamo chiesto che posto occupa I Sopravvissuti nella storia delle serie televisive. È uno dei primi che affronta il fattore epidemico lavorando con l'assenza più che la presenza. Diciamo che il protagonista principale dei Sopravvissuti non sono tanto coloro che vanno in giro, ma è l'assenza degli altri che ci sono intorno. Cioè, in quegli anni lì iniziavano le prime paure mondiali, quindi proprio il fattore di sfuggire ai virus, che il virus viene visto come qualsiasi tipo di minaccia. Ricordiamoci che c'era anche una minaccia atomica, neanche ancora nucleare, nell'aria. Però mi ricordo che nella prima stagione io ero molto piccolo, però ne parlavano tutti. Un quasi Twin Peaks, no? Grazie a Fabrizio Margaria del Telefilm Festival, appuntamento a inizio maggio, ve lo ricordo, avremo modo però di parlarne. Noi salutiamo anche Claudio Pofi, con cui ci risentiamo fra 7 giorni. Ciao Claudio. A presto, un saluto. E così chiudiamo questa intensa puntata della Rosa Purpurea. Ci sentiamo fra una settimana qui su Radio 24. Il film più atteso del prossimo weekend è senz'altro Gran Torino, il nuovo lavoro, e chi l'ha visto dice capolavoro, di Clint Eastwood. Ve lo racconteremo alla Rosa Purpurea sabato alle 18 e domenica alle 9. Un saluto da Franco D'Assisti.